9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 10 febbraio, Santa Scolastica da parte di Oscar Giannino. Prima una comunicazione di servizio che ripeterò ogni inizio della trasmissione. Chi di voi per caso, comunque la pensiate, ma sia a favore del fatto di intitolare una grande strada italiana a Ronald Reagan, che è nato 100 anni fa il 6 febbraio, era domenica, per questo non l'abbiamo festeggiato, ma chi per caso pensasse, come me, che uno dei grandi statisti del secolo scorso, a cui dobbiamo il ritorno al mercato, il ritorno alla spesa controllata e poi anche, insieme a Giovanni Paolo II, all'abbattimento del muro e al cambio del mondo, al fatto che libertà e democrazia oggi si sono anche nella sponda sud, nella speranza, speriamo, della transizione dei regimi come l'Egitto e la Tunisia, si deve anche a Ronald Reagan, se siete d'accordo, e invece non pensate che sia un principe del male, a intitolare una strada a lui, allora date la vostra firma, l'indirizzo è www.tocqueville, scritto Tocqueville, che è un grande profeta del liberalismo dell'800.it/ronaldreagan.aspx. Comunque il sito, lo ripeto, è www.tocqueville.it. Tre punti all'ordine del giorno di questa trasmissione. Esamineremo di sicuro in maniera approfondita con i nostri ospiti i provvedimenti varati ieri dal governo per questa che doveva essere la frustata. Siamo all'inizio di un processo, i giornali giudicano oggi che sia troppo poco, ma insomma vedremo di che si tratta e lo vedremo dal punto di vista dell'economia reale e delle imprese. Sullo sfondo vi chiedo un'opinione. Cosa pensate del fatto che in questo stesso giorno, non credo affatto sia un caso, il ministro del Tesoro e dell'Economia, Giulio Tremonti, colui al quale dobbiamo il fatto di aver fatto poco deficit, ma al quale dobbiamo anche poi la lesina dei conti pubblici, che tutti continuano a lamentare come ciò che manca, come carburante aggiuntivo ai provvedimenti per il sostegno dell'economia, proprio nel giorno di quel Consiglio dei Ministri e proprio nel giorno in cui c'è una recrudescenza giudiziaria, per cui è evidente che andremo di fronte a settimane con un punto interrogativo e con il dubbio molto forte sulla tenuta della legislatura, prende un treno e va al sud, prende un treno senza avvisare Moretti, l'amministratore delegato, lo prende insieme al capo della CISL, Raffaele Bonanni, al capo della UIL, Angeletti, a casa la segretaria della CGIL, Susanna Camusso, che protesta parlando di una iniziativa sovietica, e in questo treno verso il sud, verso Reggio Calabria, poi con un regionale verso Paola, inizia il viaggio verso il sud del ministro dell'economia, che slide alla mano mostra ai segretari di CISL UIL che il problema non è affatto quello di risorse aggiuntive, perché abbiamo dato il 20% delle risorse al sud, ma il sud non è in condizione di spenderle, ci mette tempi inenarrabili, continua a dissipare su 1000 risorse. Per il piano 2007-2013 delle risorse europee ha speso poco più del 5% dei pacchi di miliardi a disposizione, e per quanto ancora resta di tutte quelle risorse che rischiamo di perdere ha frazionato le proprie proposte in migliaia e migliaia di microprogetti invece che accentrarli in poche infrastrutture davvero prioritarie. Avete capito che l'iniziativa di Tremonti è una specie di doppio passo che incardina ancora di più su di sé una proiezione verso il futuro, insieme a due importanti sindacati, quelli che hanno condiviso con Confindustria la svolta dei contratti. Vi chiedo un'opinione anche su questo, ma intanto questa trasmissione la cominciamo in coerenza con lo spirito di servizio di Radio 24, che lo sapete, quando si è abbattuto l'alluvione del Veneto, per giorni e giorni, dal mattino alla sera, ha attirato l'attenzione nazionale, che era distratta verso la violenza di ciò che quella temperie atmosferica ha scatenato su tre province, su mezza regione e su migliaia e migliaia di imprese. Torniamo su questo punto, perché ieri per noi è stato molto importante osservarlo, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, con misura, senza alzare il tono, ma con grande decisione, è tornato sul punto che noi abbiamo documentato mese dopo mese, perché il problema era quello di venire incontro fiscalmente alle esigenze delle imprese per affrontare l'emergenza, per consentire nel rigore di quelle liste molto ristrette che il presidente commissario, insieme ai presidenti delle associazioni d'impresa, ai presidenti delle province, ai sindaci, ha stilato delle imprese che avevano bisogno di aiuti per non restare ferme. Nel rigore di tutto questo abbiamo documentato però che a nostro giudizio restava una disattenzione, e ieri il presidente della regione Veneto, mentre l'Italia si interroga su grandi questioni nazionali, ha parlato di nuovo, e io voglio cominciare proprio da lui, perché con l'attenzione alla parte più produttiva dell'Italia, che spende meglio i suoi soldi, che dà un esempio concreto di come ci si tira sulle maniche, si fa dal basso, secondo

Abbiamo visto che cosa è capitato la scorsa settimana per quello relativo al fisco municipale. Ora deve venire quello relativo a regioni, province e costi standard in sanità. Rispetto alle tensioni, al quadro che si è aperto nella legislatura, non solo per il voto paritario sul fisco municipale, quindi respinto, e l'iniziativa del governo, il capo dello Stato, ma rispetto anche al quadro delle iniziative giudiziarie, Procura di Milano, quello che si profila nelle prossime settimane. La sua opinione, da Presidente di Regione Veneto e da esponente della Lega, è che in queste condizioni conviene continuare a esperire ogni difficile strada pur di portare a casa i decreti attuativi così come sono, sapendo che l'iter in Parlamento è così complicato e minacciato da iniziative extrapolitiche, oppure varrà la pena a un certo punto, tra non troppo tempo, di fare una riflessione politica come Lega, insieme al resto della maggioranza, al Presidente del Consiglio, e dire andiamo agli italiani, rifacciamoci contare per avere un'iniezione sul federalismo ancora più forte, energica, e dimostrare che ha il consenso dell'opinione pubblica per ricominciare da zero. Certo, ricominciare da zero ogni volta è sempre complicato, ma le chiedo un giudizio rispetto a quello che secondo lei realisticamente può venire da questo quadro politico, pensando appunto al Veneto, alla parte di nord che in realtà dà un terzo, più di un terzo del proprio gettito allo Stato senza rivederselo poi tornare indietro, e per quel terzo o più che dà rispetto al gettito pro capite non vede affatto risolto nei decenni il problema del gap del sud, ma lo vede eternato. Ma guardi, io dico che solo i pessimisti non fanno fortuna. Io ho l'impressione, e ne sono convinto fino in fondo, che siamo in buone mani, che sono le mani di Calderoli, di Bossi e di quello che sta giorno dopo giorno diventando questa grande riforma, questa grande rivoluzione copernicana. Io sono assolutamente fiducioso del fatto che passeranno anche gli altri decreti. Le dico anche di più, che al di là dell'aspetto importantissimo, che è l'aspetto principale della fiscalità, di tutte queste nuove norme che vengono introdotte, la compartecipazione all'IVA, insomma un po' tutto quello che lei sa meglio di me, c'è da dire una cosa importante, che questo è anche un grande cambiamento culturale. Questo paese finalmente ha imboccato la strada delle riforme del federalismo, e io direi che si vedranno ancora altri risultati, non mi porrei proprio il problema. Grazie al Presidente Zaia. Noi continueremo a ripetere al governo questo appello. Avete visto, non c'è niente di ultimativo, non ci sono minacce, però ci sono delle cifre. Cifre: se i soli danni cubano 1 miliardo e se ciò che serve per mettere in sicurezza tra opere idrauliche e argine sono 2,5 miliardi, i 300 milioni già distribuiti del primo soccorso alle imprese e all'economia colpita non sono che il primo tassello. E queste risorse sono, rispetto a quelle necessarie per rafforzare stata economica, quelle dell'emergenza assoluta, perché altrimenti neanche chi era già agganciato alla ripresa e in condizioni, per quanto sia tirato sulle maniche, per quanto faccia appello allo spirito fattivo e operoso della propria tradizione, però al meglio non solo di contribuire al proprio benessere, alla crescita dei propri perimetri di imprese, ma in realtà è la parte del paese che più contribuisce. Il 70% della crescita breve nel nostro paese viene dal manifatturiero che esporta, e lì è concentrata la parte più elevata in percentuale della piccola impresa manifatturiera collegata alla domanda internazionale. Grazie ancora a Zaia. E a questo punto, con il presidente di Confindustria Veneto, Andrea Tomat, che saluto, che potrà stare con noi per un quarto d'ora, chiedo un giudizio innanzitutto su come stanno le cose alle imprese del Veneto colpite, ma chiedo anche al presidente Tomat di allargare, darci una prima opinione su i provvedimenti varati ieri dal governo per la ripresa economica. I giornali di oggi, nella media, tutti quanti, non possono che sottolineare che si tratta di un inizio, troppo poco, non ci siamo ancora. Il presidente di Confindustria ieri ha dato un giudizio di sospensione, per così dire, perché il varo dei tre modifiche di articoli della Costituzione avrà effetti solo nel lungo termine, quando anche venisse approvato. Ciò che Confindustria si aspettava soprattutto, cioè il decreto semplificazione a cui ha lavorato Calderoli e che è stato riaffidato in coordinamento a Calderoli e al ministro Brunetta, che davvero si è approvato per la quantità di semplificazioni sui cantieri, sulle opere, sulle procedure ambientali, su i controlli ex post all'attività di impresa, potrebbe smuovere forse un punto di PIL. Quel decreto non c'è e quindi il giudizio è un po' sospeso. Buongiorno Tomat, cominciamo dal Veneto, ma insomma si allarghi anche al governo, prego. Grazie, buongiorno direttore, buongiorno anche a tutti e grazie dell'ospitalità, dell'occasione di essere qui oggi a commentare due aspetti molto importanti. Per quello che riguarda riguarda l'alluvione, il governatore Zaia ha già delineato molto bene il quadro, sia sotto il profilo degli interventi che sono stati effettuati che delle richieste, pretese, credo correttamente e sicuramente a pieno diritto portate nel confronto del governo. Io mi auguro che grazie anche alla sua efficienza e all'attenzione che tutti diamo a queste iniziative poi il governo sappia dare una risposta concreta e rapida a queste esigenze. Dal punto di vista delle imprese, delle 3.500 imprese di vario genere coinvolte, come è stato già detto, nessuno qui è rimasto con le mani in mano e gran parte di queste hanno quelle meno colpite, quelle che hanno avuto la possibilità di ripristinare la propria attività lo hanno già fatto, perché come lei ben sa ogni giorno di produzione perso, ogni giorno di attività perso è un giorno particolarmente gravoso poi per la capacità di riprendere il cammino della produzione e della competizione. Quindi da questo punto di vista, anche grazie alla rete del credito, perché al di là dei contributi poi ci si è dati da fare sul piano del mettere a disposizione risorse finanziarie, di attivare collaborare appunto con le imprese per quanto fosse possibile, con i permessi, con tutto quello che era necessario e possibile fare per ripristinare la condizione precedente. Certo, per alcuni la situazione è ancora difficile perché ha subito i danni più gravi, perché avrà bisogno di fare interventi più importanti e più profondi, però direi che il quadro complessivo è un quadro positivo da questo punto di vista. C'è da fare una sottolineatura per quello che riguarda l'agricoltura, perché in realtà in quei casi l'alluvione ha lasciato e lascia, diciamo, degli strascici molto più lunghi, difficili da valutare, si tratterà di comprendere anche poi come evolverà la stagione, e quello è un comparto produttivo che ha subito dei danni credo molto importanti e che potremo peraltro valutare appieno solamente nei prossimi mesi. Da questo punto di vista, dal punto di vista diciamo quindi dello Stato, delle attività produttive, mi sento di esprimere un parere positivo. Certo, ci sono risorse economiche e soprattutto credo vada sottolineato questo aspetto della messa in sicurezza, perché l'evento che abbiamo subito è stato un evento straordinario, ma ha pregiudicato le condizioni di sicurezza che sono in questo momento abbassate. Quando parlavamo di 30 argini letteralmente spariti, significa che per il prossimo autunno il livello di rischio aumenta considerevolmente, quindi siamo esposti a situazioni pericolose con condizioni atmosferiche molto meno eccezionali di quelle che abbiamo subito. Quindi qui c'è uno spazio, un tempo, tra l'altro ricordo che siamo a febbraio, ormai i mesi corrono molto velocemente, che va affrontato con tutta l'attenzione e con tutta la tempestività. Da questo punto di vista sarà anche nostra cura come rappresentanti degli industriali sollecitare e cercare assieme al governatore e anche commissario straordinario per questo evento Zaia, affinché le opere di sicurezza e di messa in sicurezza proseguano celermente e rapidamente, per evitare di dover subire, diciamo, una situazione analoga nel prossimo autunno inverno. Per quello che riguarda in generale i risultati del Consiglio dei Ministri di ieri, ma io credo che peraltro avevo già avuto modo di commentare ieri assieme alla Presidente Marsegaglia il quadro che si delinea, forse anche per le aspettative, ma in realtà poi per gli elementi di contenuto, è un quadro molto blando di indicazione, dove evidentemente per quello che è stato proposto le aspettative sono di vedere dei risultati nel medio e lungo periodo. A breve sappiamo che non ci sono molte risorse da spendere, però ci sono riforme a costo zero da attivare, c'è una profonda trasformazione dell'apparato pubblico da promuovere. Lei richiamava le sottolineature che il ministro Tremonti sta facendo sulla scarsa capacità, se non sull'incapacità profonda poi in realtà in alcune zone, di attivare anche le poche, ma non sono in verità poche, risorse disponibili, soprattutto quelle europee. Questo credo che sia, come dire, in qualche modo il tornasole della situazione, la cartina tornasole della situazione che ci troviamo ad affrontare. Da un lato poche risorse a disposizione in termini generali, ma in verità il problema non sono le risorse, è la capacità di utilizzarle nel modo migliore, di avere dei progetti, delle idee, dei modi, diciamo, per attivare l'economia, soprattutto in alcune aree come quelle del Mezzogiorno che ne avrebbero particolarmente bisogno. Quindi da un lato c'è un'area economica, quella del nord, che avrebbe bisogno, diciamo, di semplificazione, di interventi a creare le precondizioni perché l'economia possa, diciamo, liberarsi dai lacci e le ciuole, di una serie di controlli superflui e alle volte assolutamente incongruenti. Dall'altro ci sono aree dove ci sarebbe la possibilità di avviare con spese oculate un'attività economica, quindi una dimensione economica importante per il paese, che in verità non hanno le strutture e le capacità per poterle realizzare. Ecco, su questi temi credo ci sarebbe molto spazio su cui attivarci, sul quale da subito dovremmo aspettare a vedere il governo. Aspettiamo questo provvedimento sulle semplificazioni. Al momento diciamo, i risultati del Consiglio dei Ministri di ieri sono, come dire, una sorta di riassunto o di agenda dei lavori, non producono nulla sul piano concreto. Allora, chi fosse interessato ad approfondire i 22 punti delle semplificazioni che a giudizio di Confindustria si possono fare, si devono fare, sono praticamente a costo zero, ma libererebbero punti di PIL come velocità nella realizzazione di iniziative tanto private di investimento quanto pubbliche, e che darebbero più certezza per i costi relativi alla redditività e ai costi dei fattori di produzione, li trovate oggi sul Sole 24 Ore. Ripeto, la stragrande maggioranza di questi punti non viene toccata da quello che ieri è il Consiglio dei Ministri, se non che resta a sperare che il provvedimento sulla semplificazione, quello in mano a Calderoli e a Brunetta, e che è stato collegato ieri alla legge della concorrenza, che manca da 8 mesi, siamo in ritardo di 8 mesi nel calendario politico della legge della concorrenza, quella che annualmente recepisce le direttive comunitarie e fa fare un passo avanti alle regole del mercato interno, dall'addio di Scajola ne siamo rimasti in attesa. È chiaro che quella è una cosa fondamentale, perché più concorrenza significa anche lì prezzi più bassi nel medio termine, ma abbassamento delle barriere di entrata nel mercato nel breve termine. E è stata abbinata il bozzo di legge della concorrenza preparata dal ministro Romani a quella della semplificazione. Vedremo che cosa il governo è in condizione di fare. Il mio giudizio, posso permettermi naturalmente un'opinione più franca, libera, perché non rappresento istituzionalmente nessuno, è che nel quadro politico in cui stiamo entrando, molto difficilmente, quasi impossibile, che misure come queste, che avrebbero bisogno di approvazioni rapide, di convergenza in Parlamento, visto il fatto che alla Camera, nelle commissioni parlamentari, la maggioranza non è più in condizione di controllarle, molto difficile pensare che tutto questo possa avvenire. Purtroppo questa è la distanza sempre più incolmabile tra la situazione politica e istituzionale del Paese e ciò che servirebbe a questo Paese per crescere non all'1% ma al 2-2,5%. Si potrebbe perfettamente fare, e la grande rabbia è sapere che si può fare e come farlo, e non riuscire a ottenere dalla politica e dalle istituzioni altro che la rappresentazione di questo Vietnam permanente, quotidiano, giudiziario, da tanti anni aperto per giudicare se Berlusconi è un criminale bandito o se l'Italia può avere un governo come quello di qualunque altro paese mediamente accettabile. Grazie anche a Andrea Tomat, pubblicità. Eccoci tornati in studio. Ripeto, chi volesse, tra chi ascolta senza dirmi che come al solito sono un partigiano di parte, è un'iniziativa storica. Per chi credesse che Ronald Reagan bisogna ricordarlo anche in Italia, io sono tra quelli, e volesse per questo ingrossare le fila di una raccolta di firme, al sito www.tocqueville.it trovate, se fate uno slash aggiuntivo, ronaldreagan.spx, mettete la vostra firma. La mia opinione è che Ronald Reagan è stato un grande statista del secolo scorso e per i liberali antistatalisti resta un grande punto di riferimento del fatto che non solo le cose si dicono, ma poi soprattutto si fanno. Questa è stata la grande forza sua, come di Papa Giovanni Paolo II. Fare, che espone a critiche, che divide, che spacca l'opinione pubblica, che spesso fa pensare che chi le fa con quella energia espone a maggiori rischi di quelli che poi porta a casa, eppure nella storia chi fa, oltre che dire, alla fine fa la differenza. Allora, vi leggo e chiedo poi commenti a questo, agli ospiti di questa seconda parte della trasmissione. Il primo editoriale, non intero, ma insomma vi do il senso, il primo editoriale del Foglio, relativo al Consiglio dei Ministri di ieri. Foglio, lo sappiamo tutti, con Giuliano Ferrara, è stato uno degli protagonisti del cambio di marcia tentato due settimane fa, 10 giorni fa, con questa lettera al Corriere della Sera, con cui Berlusconi disse: basta occuparci solo di giustizia, farò un'iniziativa straordinaria per questa frustata all'economia, si può tornare a crescere al 3-4%. E Giuliano Ferrara era dietro questa convinzione, ne è stato un grande ispiratore. Oggi è molto deluso Giuliano Ferrara dai contenuti, prima che da questo, e deluso dall'atteggiamento del ministro Tremonti. In un editoriale dice: ministro Tremonti, parliamoci chiaro, se lei non crede alla frustata, lo dica all'Italia e se ne assuma l'onere. Non ci è sfuggito da subito, scrive Giuliano, il suo freddo disimpegno, si rivolge personalmente al ministro dell'economia, il suo freddo disimpegno dai contenuti del piano per la crescita di cui si è discusso ieri nel Consiglio dei Ministri e di cui ha dato conto il premier Berlusconi in una conferenza stampa alla quale lei ha partecipato come un passante. 5 minuti di eloquio e arrivederci a tutti, riuscendo tuttavia a omaggiarci di una frase raggelante. La nostra agenda economica, ha detto caro Tremonti, è, virgolette, dettata e definita dall'Europa. In Europa ne deduciamo, continua Ferrara, ma lo avevamo sospettato dalla turba dei suoi impegni che avevano indotto a far dettare il Consiglio dei Ministri, che lei, signor Ministro dell'Economia, non crede affatto sia possibile portare la crescita italiana al 3-4% in 5 anni, come ha sostenuto il Cavaliere sul Corriere. Lei sembra non credere nemmeno all'idea di convocare gli stati generali dell'economia. Lei non sembra credere all'idea di coinvolgere di slancio le anime dell'intrapresa nazionale, galvanizzarle a forza di liberalizzazioni e riduzioni fiscali rese possibile dallo snellimento di uno Stato, dal patrimonio ciclopico e inerte. E questa, sempre una promessa del Cavaliere, cui si è aggiunto ieri sul Foglio l'appoggio disincantato del professor Monti. Lei, signor Ministro, crede nell'incoercibilità dell'euroburocrazia, della quale si è fatto col tempo naturale e autorevole portavoce, e deve credere anche nelle sue legittime facoltà di guida di una maggioranza la cui leadership istituzionale, quella berlusconiana, appare infragilita per ragioni contingenti di cui tutti sappiamo. Chiamiamola infragilita, a me sembra ferita molto profondamente, altro che infragilita. Come avete capito, Giuliano Ferrara dice, Giulio Tremonti è il sabotatore di queste misure. Allora, ai due ospiti che si sono aggiunti e che conoscete entrambi benissimo perché dai nostri microfoni li invitiamo spesso, il primo Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre. Buongiorno Bortolussi. Buongiorno a voi. E Roberto Papetti, direttore del Gazzettino. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Chiedo un'opinione franca intorno a questo viaggio del Sud nello stesso giorno del ministro dell'economia con Bonanni e con Angeletti, un'iniziativa che fa rievocare le vecchie cose un po' di Teddy Roosevelt, con le tappe dei treni nel West. Stamattina il ritorno dalla Calabria, ieri è avvenuto il viaggio ferroviario, avverrà invece sulla Salerno-Reggio Calabria, un'opera che doveva essere conclusa alla bellezza di 11 anni fa e che attualmente nessuno può immaginare si compia prima del 2019. Bortolussi, qual è la sua impressione? La mia impressione è che viviamo un momento molto difficile e molto particolare. Vedendo un attimino della conferenza stampa ieri del Presidente del Consiglio, ho avuto la sensazione che siamo vicini a una sorta di 25 luglio. Non sono irriverente e non lo dico con nessuna cattiveria d'animo, dico solo che sono annunci che non hanno grande consistenza. Poi c'è una contraddizione. Vede, io ho letto anche la rassegna stampa ho letto il comunicato del Consiglio dei Ministri. A me sembra acqua fresca e aria fritta, sinceramente. Ripeto, non lo dico con nessuna cosa, però chiunque lo legga nota questo. Ma guardate, si parla, per esempio, parlo degli incentivi alle imprese, si parla di una delega che era dell'agosto del 2009. Agosto 2009. Ora si parla di una proroga fino a agosto 2011 e sono degli incentivi rispetto alla nostra situazione, per carità, risibili, però insomma, per carità, dalla nostra parte si dice che piuttosto di niente è meglio piuttosto. Ma e comunque questa... riordino parte dal 2012 e non c'è nessun euro. Sì, no, ecco, questo mi permetta, sembra quasi una polizza di assicurazione sulla vita, un piano triennale che comincerà a operare dal 2012, come dire, ve lo do io se state buoni. Allora c'è qualcosa che non mi quadra e quindi questa non è certo una frustrata, questo è uno flop, questo è non annunciare nulla, ripeto, aria fritta rispetto a quello che hanno bisogno le imprese. Io non voglio essere irriverente, anzi, sono sempre stato molto equanime nei miei giudizi, però questa cosa, guardi, non è certo una frustata all'economia, una possibilità di sviluppo. Legga anche lei il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri e si accorgerà che ci sono nomine, che ci sono cavalierati, che ci sono alcune cose che riguardano per esempio la giustizia civile che io non sottovaluterei, e la cosa positiva è quella dell'IRAP, la rimodulazione delle deduzioni dell'IRAP, dell'IRAP non è male, cioè riuscire a tener conto del costo del lavoro, del tipo di settore a cui appartiene l'azienda e magari dell'area dove opera, è certamente una cosa utile che va nel senso giusto, ma mi sembra che sia annegata insieme a tante altre piccole cose che per carità possono anche servire, ma se oggi c'è bisogno di una frustata non è certo questa la frustata, la contraddizione. Vede, la contraddizione è che evidentemente ci sono modi di vedere le cose. E lei sa, perché lei è un fine economista, che c'è stato un grande confronto anche ideologico tra i keynesiani e i seguaci di Milton Friedman, no? O anche di Schumpeter per certi versi. Schumpeter diceva che quando c'è una crisi il modo migliore per superarlo è che la febbre passi da sola, senza aiuti, perché questi creeranno poi inflazione e altri problemi. Il problema è che tutto il mondo, anche quello che si definiva seguace di un certo tipo di liberismo, vedi gli americani, vedi lo stesso Bush, mi spiego, hanno approvato dei piani incredibili dal punto di vista della spesa pubblica, mi spiego, hanno abbassato i tassi per certi versi, aumentato la liquidità, aumentato anche la spesa pubblica, si parlava di un piano da 700 miliardi di dollari, quindi più diciamo keynesiani di così non si può essere. In Italia invece abbiamo un bravissimo ministro, molto bravo, che io stimo personalmente, anche mi onoro della sua amicizia, ma che la pensa diversamente, che sia prioritario mantenere i conti a posto, come faceva Hoover nel 29, come facevano altri. Quindi tanto di cappello a Tremonti e il fatto che in Italia è forse l'unico che riesce a mantenere la barra dritta, che riesce a mantenere le sue opinioni e le sue convinzioni. Fatto sta che adesso che è passato il pericolo finanziario, noi dobbiamo anche cercare di investire qualcosa di più proprio per dare questa frustata. Mi sembra che la contraddizione sia che mentre il cavaliere avrebbe l'idea di investire qualcosa in più, chi tiene i cordoni della borsa dica, per ragioni validissime che si possono anche condividere, che oggi non è il momento. Ecco, se si elimina questa contraddizione forse riusciamo a fare qualche passo, ma finché si contrappongono queste due concezioni, questi due modi di vedere, secondo me non andiamo da nessuna parte. Ecco, invece le aziende hanno bisogno, non solo nel Veneto ma dappertutto, hanno bisogno di chiarezza rispetto a questa incertezza, hanno bisogno di capire dove andare, cosa fare, e le cose stanno anche rimettendosi un po' a posto, sta aumentando l'export, per esempio vedo qui nel Veneto la crescita è prevista sull'1,3 nonostante l'alluvione, però se non c'è un'indicazione precisa, univoca, difficilmente le cose andranno meglio, altro che crescita al 2%, qua andremo indietro probabilmente. Perché il problema è che questi tempi lunghissimi dei chiarimenti giudiziari e politici all'interno della maggioranza eccetera fanno a pugni con i tempi dei mercati che sono più rapidi, le imprese devono reagire in tempo reale e solo le imprese possono dare più lavoro, difendere il lavoro che c'è, questa è l'enorme contraddizione. Quando si parla di una politica normale si parla innanzitutto di una politica capace di reagire, oltre che di analizzare bene le risorse, ma di reagire in tempi che sono quelli minimo coerenti, vicini a quelli del mercato. Ma insomma, questo Tremonti è quello che fa benissimo ricordarci che nella sessione di aprile del bilancio europeo noi saremo giudicati per la tenuta dei conti e per il piano nazionale di riforme, che ricordate sarà il ministro a dover presentare, che attualmente non è sul tavolo ancora di nessuno. Se è così, è su di lui che bisogna puntare, dargli ragione sulla lesina, ma dire facci vedere quello che sai fare, oppure invece, come pensa Ferrara, come pensano i berlusconiani della maggioranza, è il vero ostacolo oramai al fatto che ci sia una risposta in tempi reali. Questa è la domanda a Papetti, subito dopo le informazioni sulla circolazione stradale. Allora, come la pensa il direttore del Gazzettino su questa specie di eterno binomio che non riesce mai a andare allo stesso passo, Tremonti Berlusconi? Come vede il proseguo della legislatura rispetto al Nord e al Veneto? Ma allora, io penso che l'editoriale di Giuliano Ferrara riproponga con l'efficacia tipica del giornalismo di Ferrara un contratto che c'è nel governo ormai da tempo. Penso anche però che nel ragionamento che fa Ferrara le ragioni della politica facciano un po' troppo premio su quelle dell'economia. Cosa voglio dire? Devo dire questo, che Tremonti è riuscito fino adesso a imporre al governo la sua linea, cioè una linea che privilegia il bilancio rispetto alla crescita, per dirla in modo assolutamente semplice, assolutamente banale. Va anche detto che i fatti finora gli hanno dato ragione, nel senso che l'Italia, al contrario di quanto molti avevano preconizzato, ha retto all'impatto della crisi assai meglio di altri paesi. Il problema qual è? Il problema è che oggi ci sono segnali di ripresa, l'azienda Italia ha bisogno di una frustata, di quella frustata che era stata annunciata, e Tremonti, in tutta evidenza, e il suo comportamento ieri lo ha dimostrato, ritiene che le risorse per questa frustata non possano essere in questo momento messe a disposizione. Ora stamattina il Corriere della Sera titolava il suo editoriale "Strada giusta, passo breve", a proposito del provvedimento del governo. Ora io credo, condivido assolutamente nella sua efficace sintesi questa analisi, e si tratta però di capire a questo punto, anche dal punto di vista di Tremonti, quando lungo questa strada sarà il momento di aprire i cordoni della borsa e di impostare un piano per la crescita, perché il deficit del provvedimento di ieri non sta nelle intenzioni, ovviamente, che sono buone, lodevoli e apprezzabili. Il fatto che il governo parli di crescita mentre qualcun altro parla di patrimoniale mi sembra già significativo. Però si tratta di capire quando, per esempio, si porrà mano a una riforma fiscale, quando, per esempio, ci sarà un quadro più preciso dell'indirizzo che il nostro sistema produttivo vuole prendere. Noi in questi giorni, in queste settimane, abbiamo molto parlato di Fiat e dei problemi della Fiat, cioè, li conosciamo tutti. Questa manovra, questo provvedimento pone l'attenzione sulle piccole e medie imprese, ma noi sappiamo benissimo che il problema di questo paese non sono le piccole e medie imprese, le quali hanno cominciato già a macinare fatturato, utili, a fare export, ma il fatto che queste piccole e medie imprese, tutte queste piccole e medie imprese, tali sono e tali restano, cioè non diventano grandi. Allora, il problema io credo che abbiamo di fronte è questo. Fino adesso la strategia di Tremonti ha consentito all'Italia di tenere botta, di tenere la barra dritta. Questo però, io credo, non è giudicato sufficiente. Si tratta di capire, lungo questa strada, e questo anche Tremonti però lo deve dire, quando verrà il momento di cambiare marcia. E su questo il governo deve avere un confronto, ma deve dare anche delle indicazioni precise, perché è questo che il sistema produttivo del nord-est, del sistema paese, ha bisogno. Il treno del sud, che impressione ti fa? Ma mi fa, no, direi che un'iniziativa lodevole, ma non mi fa una particolare impressione, devo dire. Bortolussi, l'idea del treno del sud nello stesso giorno con Bonanni e con Angeletti non è un'idea in realtà alternativa, di fare capire senza battute, senza iniziative polemiche, che il tempo di Berlusconi è finito, che in realtà Tremonti è un'ipotesi altra, diversa, di saldezza europea, di lesina, e poi dice in sottinteso: se la riforma fiscale non ce l'avete avuta fino a questo momento è perché io non sono stato al comando. Non ci vedi tutte queste cose? Bortolussi? Prima con te, nel senso che la battuta che ti farò non ti piacerà. Io ti ho citato prima il 25 luglio, quella conferenza stampa mi dava l'idea da ultimo atto, questa mi sembra la fuga a Pescara. È chiarissimo. Tentiamo di non inoltrarci oltre per evitare che la finanza poi faccia giustizia di me una volta per tutte. Non mi voglio coinvolgere in questi paragoni storici, però intendiamoci bene. Io credo che noi dobbiamo essere misurati, ma il nostro mestiere di giornalisti è fare capire anche a chi ci ascolta che la condizione istituzionale non è poi molto diversa da quella di fasi terribili della storia italiana, perché dopo 17 anni di continuo scontro con la giustizia a mani libere, con la politica che reagisce dicendo non mi faccio buttare sotto da te, come vedete evita poi scelte, agende, decisioni, provvedimenti che sono quelle di cui da una parte o dall'altra, oggi abbiamo parlato poco dal punto di vista dell'opposizione, però sono comunque lontani da quello che poi in realtà la politica è oggi in condizione di fare. Quindi sia 25 luglio o 8 settembre, come dice Bortolussi, e sia con la maggior prudenza del direttore del Gazzettino, la verità è che ciascuno può riflettere su come possa andare avanti il paese in queste condizioni. Grazie a tutti gli ospiti di oggi, la linea al Giornale Radio, appuntamento a domani.